Yeah! Ok! Yeah! E adesso tuo fratello cane secco torna un po' a farime, ma prima sentire quelle dei miei fratelli. Yeah! Batman! Jamie Tights! Te vedevo core, fratello, un po' tre anni che te vedevo core. Però ancora non ho capito una cosa, ma com'è che... Ma non ci prendi mai, non ci prendi mai, non ci prendi mai. Non ci prendi mai, fratello. Non ci prendi mai. E anche se metti i codici, trucchetti al gioco, non ci prendi mai. Madman! Non lo prendi a Mad, vado forte Mach 3 sopra ad un missile rosso con su scritto Acme. Volo come Clark Kent, suono come Wagner. Con i miei fra su una 3, tu ci fai da Starman. Se rima te per me, rapper prima che bebè. So già tutto, perciò faccio brutto come il KGB. Volo come un rondone, hit che ti scompone. Chi ci si oppone insegue un mic con un gommone. 800 cavalli tipo la NASCAR. Voi state sui cavalli e basta. Noi veloci in branco fra feroci quanto liberi. Veloci Raptor contro velocipedi. Bevo una stout, dopo faccio burnout. Su sta traccia che ti schiaccia quella faccia da scout. Andiamo dalla capitale alla città del Duomo, senza camminare fly alla velocità del suono. Ti vedo core, ma non ci prendi mai, non ci prendi mai, non ci prendi mai, non ci prendi mai, non ci prendi mai, non ci prendi mai, non ci prendi mai, non ci prendi mai, non ci prendi mai. Stammi dietro che vado forte, Bugatti. Sono stato al tuo concerto, Bugatti. Impenno come un Ducati. Non ci prendi neanche se metti i motori truccati. Nuvola di fumo che esce dal vetro, in bocca un torpedo. Mi prendi non credo, sono concreto. Con quelli come te manco ci competo. Ti scoppio, intendo proprio che ti doppio di giro completo. Tu sbatti la sera, la spacchi. Noi bandiera a scacchi. Se parto, sono più rapido. Un ghepardo, tu sei un bradipo. Quindi metti via la speranza che avevi di salire sul podio. Continui a sputarmi odio che per provare a seguirmi diventi strafico. Dai esci, vuole gare sì. Io vado più veloce di Alesi. Do il gas e rimani là, il flow ti schiaccia come un adesivo. Quindi nella gara non pensare a fare il fico, piuttosto pensa a restare vivo. Ti vedo core, ma non ci prendi mai. Note. Bip bip, saluta Willier Coyote. Vai compete coglione, gli devi date ciclette. È più facile che becchi tu madre su chat roulette. Mi chiamano per nome per far finta che se conoscemo. Se pensano te fotte conoscemo. Quando parto di riparto arrivo così in alto che salto all'indietro nel tempo. E vedo giovane mi nonno ardo. Sì vabbè, queste rime te che cazzo ne sai? Sappiamo tutto, non importa quanto spazio ce dai. E dai, già lo so che tanto non ce prenderai. Perché vengo dal futuro come a cura per lights. Con doppia M, Jamie Tights, rima prova d'odio. Non vince chi va più lontano, ma chi trova il podio. Sono in vetta, particelle d'esodio. Lo va in pronostico per prossimo episodio, frate. Non ci prendi mai.